e il Gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò, che ti avrò. Oggi raccontiamo una storia meravigliosa, ma anche molto tragica, soprattutto nel suo finale, che sfugge a qualsiasi regola, perché le persone che diventano famose, in qualche modo anche quando hanno la fine carriera o il declino, vengono seguite, si sa che fine fanno. Bene, oggi parliamo di una persona che sembrava per un certo periodo assolutamente sparita nel nulla. Il mistero di Arpad Weiss, calciatore e poi allenatore, ne racconteremo l'epopea, che vince scudetti, che ha una serie enorme di successi e che poi sembra essere sparito nel nulla per colpa della sua religione. Mi sembra che si chiamasse Weiss. Era molto bravo, ma anche ebreo. E chissà com'è finito. Allora, oggi abbiamo deciso di parlarne grazie a uno dei nostri ascoltatori, Gerardo Giantin, e ce l'abbiamo in collegamento. Buongiorno Gerardo. Ciao Enrico, ciao. Cosa ti ha affascinato della storia di Arpad Weiss? Guarda, io mi sono imbattuto in questo nome, che per me era solo un nome, guardando Wikipedia. Sì. E sono risalito alla storia del Padova, che è sì, una delle squadre che seguo insieme all'Inter. Sì, bene, ti fa onore questo. E ha visto che lui era stato un calciatore del Padova nella stagione 25-26. Sì. E poi, quando sono andato a vedere la storia dell'Inter, ho ritrovato lo stesso nome come allenatore, però stavolta ho visto che era stato un allenatore di successo e poi se ne erano perse le tracce. Esatto. E allora noi racconteremo a tutti perché questo è avvenuto, per quali tragici eventi questo è avvenuto. Grazie Gerardo. Grazie a te Enrico, mi fa molto piacere ascoltare questa storia. Bene, allora bisogna raccontarla bene questa storia. Intanto bisogna ricordare a tutti chi era il grande Arpad Weiss. Weiss ha avuto una vita ricca. Sotto l'aspetto professionale ha ottenuto più di quanto si possa chiedere solitamente ai sogni. È l'allenatore più giovane ad aver vinto uno scudetto, primato ancora oggi imbattuto. Di scudetti ne ha vinti 3, tra Inter e Bologna, e anche il trofeo dell'esposizione a Parigi. Weiss ha dominato con la forza delle idee, introducendo novità decisive nel calcio italiano da ogni punto di vista. Preparazione, professionalità, rigore scientifico, ritagliandosi così un posto di prestigio nella nascente storia del pallone. Ha pure interrotto i 5 anni di egemonia della Juve. Questo è parte del libro di Matteo Marani, il direttore del Guerin Sportivo, il libro Dallo Scudetto ad Auschwitz, pubblicato da Aliberti. E sentiamone ancora una parte per cercare di capire Arpad Weiss. Weiss ha pudore, misura, preferisce i piccoli fatti quotidiani alla grandezza. Di questo è fatto l'uomo. Quando ha da chiarire qualcosa con un giocatore, lo invita a cena a casa. E lì, come reciterebbe il linguaggio odierno, fanno spogliatoio. È talmente pignolo che dopo ogni allenamento o partita aspetta i suoi giocatori all'uscita per valutarne lo stato d'animo un'ultima volta. Una dedizione unica allo studio. Veste elegante, a modi garbati, letture importanti alle spalle. Il corpo assomiglia al suo calcio, asciutto e funzionale. Forse nasconde una punta di vanità. E allora partiamo dal principio. Figlio di ebrei ungheresi, Arpad Weiss nasce a Solt nel 1896 ed è un calciatore di buon livello, un'ala sinistra veloce. Nel 23 con la sua nazionale l'Ungheria scende in campo contro l'Italia a Genova, si fa notare e così viene chiamato prima al Padova, come ci ha suggerito il nostro ascoltatore, e poi all'Inter. Stagioni promettenti all'inizio, poi un infortunio al ginocchio e la carriera che viene interrotta bruscamente, e questa è una caratteristica di molti grandi allenatori. Brian Clough, per esempio, una carriera interrotta da un infortunio che dà il via a una carriera di allenatore ancora più brillante. E così nel 1926, quindi a soli 30 anni, lui è già allenatore ad Alessandria. Nel 29 passa all'Ambrosiana Inter e vince lo scudetto. È un'impresa che è il suo vero capolavoro, ha realizzato grazie al suo intuito e anche alla capacità di valorizzare i giovani, a partire da un ragazzino di 17 anni che si chiama Giuseppe Meazza. Leggendo la Gazzetta dello Sport, e come ogni ragazza lei fa pasta per Meazza che farete a tempo di foxtrot. Non porta un fascio d'erba sulla testa, né reca tra le mani un mazzolino, ma sembra un figurino nel suo candido abitino con cappello in petto e l'ombrellino. Lei sa di già chi vincerà l'andata del girone. La Donzelletta di Gilberto Mazzi è una canzone dedicata a Giuseppe Meazza, che è l'idolo incontrastato delle ragazze dell'epoca, e lo ha scoperto proprio lui. Arpad Weiss lo ha portato in prima squadra, ha investito su di lui tempo, energie, lo ha allenato singolarmente, e Giuseppe ripaga la fiducia ricevuta, e la ripaga a suon di gol. In quel campionato segna 32 gol, quello dello scudetto dell'Ambrosiana Inter, e peraltro un campionato conquistato all'ultima giornata con una partita da manuale 2-0 alla Juventus. Così Peppino Meazza, che è chiamato anche il Balilla, che viene scartato a un provino all'inizio perché era troppo magro, diventa un idolo. È forse il primo dei giocatori di calcio in senso moderno, perché in lui c'è anche quel divismo che piace alle donne, ne fa un testimonial pubblicitario di successo. Ma non solo Meazza, perché in quel periodo Arpad Weiss crea anche, forgia talenti come quello di Fulvio Bernardini, Giuseppe Viani, entrambi diventeranno grandi allenatori, e poi Alemandi, Ceresoli, Serantoni, che diventeranno campioni del mondo nel 1934. Nel 1930 Arpad Weiss, che nel frattempo ha italianizzato il cognome in Weiss con la V al posto del W, primo tentativo prudente di italianizzarsi, cosa che non gli riuscirà del tutto bene, nel 30 dà alle stampe un libro che si chiama Il gioco del calcio. La prefazione gliela scrive Vittorio Pozzo, il CT della Nazionale, ed è un imprimatur importante. Il libro è una svolta per il calcio italiano, perché anticipa i tempi, contiene schemi di gioco, regole tecniche, ruoli, tattiche, metodi di allenamento, come racconta anche Renzo Olivieri, che è il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori. Questo è un documentario della RAI. Per me è stata una sorpresa trovare in un libro degli anni 30 i concetti di oggi molto moderni. Se noi pensiamo a uno dei titoli di questo libro, Scambio di posto fra ala e semiala, è un'azione molto nota, quella del cambiamento di posto fra l'ala e la semiala. Questo cambiamento avviene ogni qualvolta l'ala marcata non può passare il pallone alla semiala, che si trova nella sua posizione originale. È allora che la semiala si porta in profondità al posto dell'ala e riceve il passaggio eseguito lungo la linea laterale. Naturalmente l'ala deve in questo caso sostituirsi al compagno come semiala. Questi cambi di posizione oggi fanno parte della normalità del gioco, essendo accentuato molto il pressing su chi costruisce gioco, si cerca di cambiare posizione proprio per eludere questa pressione che gli avversari fanno su chi è in possesso palla. Abbiamo lasciato il nostro protagonista, l'ungherese Arpad Weiss, a Milano, sulla panchina dell'Ambrosiana Inter. Siamo nel 1930. A lui Milano piace, è una città di intellettuali, è la città di Marinetti, e poi c'è l'Inter, che è una squadra che vince in quel momento, sono anni di soddisfazioni, e il commissario tecnico della nazionale Pozzo scrive la prefazione al suo libro Il gioco del calcio, che è una bibbia per appassionati, per calciatori, per allenatori. La sua Inter vince, gioca bene, anche se dopo quello del 1929-30 non arrivano altri scudetti. Lui vive a Milano con la moglie Ilona, che anche lei italianizza il suo nome in Elena, moglie sposata in Ungheria. Abita in Corso Italia, frequenta il bar Vittorio Emanuele. I giornalisti ne hanno stima, rispetto, il Calcio Illustrato lo definisce il mago. I figli di Weiss, Roberto e Clara, nascono alla Mangiagalli. E i bambini vengono battezzati, perché i Weiss sono sì ebrei, ma non sono osservanti, e quindi in qualche modo continua il loro processo di cercare di ammorbidire la loro immagine nei confronti di questa Italia che sta nascendo anche con, come dire, pietri presupposti. Allenamento dopo allenamento, Weiss ottiene due secondi posti, entrambi dietro alla Juventus di Agnelli, una finale di Coppa Europa nel 1933. Insomma, lui vince, è conosciuto, contribuisce a creare un'attenzione e un tifo attorno al gioco del calcio che si sarebbe sviluppato negli anni successivi, ma è uno dei grandi sponsor di quel calcio degli anni 30. Le canzoni dell'epoca, infatti, il calcio cominciano a celebrarlo in qualche modo. Il mio amore è senza attacco, nelle gambe non è fiacco, non è poetico sentimentale, ma se mi dà una stretta mi fa male. Nella canzone Il mio amore è un centrattacco, che è cantata da Mimì Bianchi, prima cantante dell'Eiar, cioè il nome antico della Rai, c'è... come dire, una tensione, un'ammirazione per questi nuovi divi, i campioni di calcio dell'epoca. E quindi il pallone, insomma, comincia a diventare glamour e ad assumere quindi anche un ruolo fondamentale nella propaganda fascista. E ce lo racconta lo storico Michele Sarfati, che è il direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Nel fascismo lo sport significava l'esaltazione del corpo, specialmente di quello maschile, e immediatamente come conseguenza strettamente legata l'esaltazione della forza e della violenza. Lo sport era strettamente funzionale all'ideologia e al sistema di governo fascista. Torniamo a Weiss, siamo nel 32, comincia a cambiare qualcosa, perché si incrina il rapporto tra lui e l'Inter, perché dopo Oreste Simonotti arriva un nuovo presidente, si chiama Ferdinando Pozzani, insomma è un nuovo ricco in interessi economici, un uomo di scarso tatto, mi ricorda dei presidenti di oggi, ma comunque non lesina le sfuriate ai giocatori, le critiche all'allenatore, vuole imporre la formazione, chiunque vi venga in mente non ditelo, e lui non riesce a sopportare la supremazia della Juventus, così nel 34 affianca a Weiss un altro tecnico, questo è un affronto che lui non può sopportare, quindi possiamo immaginarceli, insomma, Weiss e il suo presidente ricco che discutono, e lui che fa presente che la squadra è ancora inferiore alla Juventus, e il secondo che invece difende la sua campagna acquisti dicendo che pretende vittorie. Con questa squadra serviranno almeno 2 anni prima di tornare a vincere. Questo è quello che sostiene Weiss con schiettezza, insomma, però la sua sincerità stronca le ambizioni del presidente, e questo gli costa il posto, viene rescisso il contratto e l'Inter finisce la sua avventura con uno che può essere considerato uno dei migliori allenatori passati dalla sponda nerazzurra. Lui va a Bari e poi va a Bologna, attenzione. Bologna, una vecchia signora dai fianchi un po' molli, col seno sul piano padano ed il culo sui colli. Bologna arrogante e papale, Bologna la rossa e fetale, Bologna la grassa e l'umana, già un poco romagna e in odor di Toscana. Siamo nel 1900. 1935 lui e la moglie e i figli arrivano a, a Bologna, vanno a vivere non lontano dallo stadio Dallara, e lui ha voglia di rivincita dopo un periodo difficile, perché adesso si gioca tutto dal punto di vista professionale. In quegli anni Bologna ha 300.000 abitanti ed ha uno stadio che ne contiene 50.000, uno stadio che ha voluto il gerarca fascista Leandro Arpinati per fare un omaggio al Duce, infatti insomma è uno stadio di classica architettura fascista, c'è ancora, adesso si chiama Dallara. La squadra che Weiss allena è fatta da italiani e da stranieri, Francisco Fedullo, Sansone, Andreolo, Schiavio, Dino Fiorini, sono le colonne di un Bologna che viene definito lo squadrone che tremare il mondo fa. Sotto la guida di Weiss, che peraltro allena per la prima volta indossando calzoncini e maglietta alla testa del gruppo, cioè oggi è abbastanza normale, però in quegli anni l'allenatore era più uno da giacca e cravatta, invece lui corre insieme agli altri, anche perché ha iniziato a allenare molto giovane. Bene, cavalcata del Bologna verso lo scudetto, che vince uno e poi l'anno dopo il Bologna sembra imprendibile. Si gioca a Parigi, per esempio, la finale del trofeo dell'esposizione, che è un po' l'antenato della Champions League. Il Bologna affronta i maestri inglesi del Chelsea. I rossoblù compiono un'impresa, vincono 4-1 e Weiss viene ritenuto il più grande allenatore d'Europa. Siamo nel 1937, però la sua vita sta per cambiare per sempre, e questa volta non c'è un colpo d'ala, c'è Benito Mussolini. Pensare che i due si erano incontrati nel 1936, quando il Duce volle premiare insieme agli atleti delle Olimpiadi di Berlino anche i giocatori del Bologna che avevano vinto il campionato. Sentiamo uno stralcio dal libro Dallo scudetto a Auschwitz di Matteo Marani. È forse la prima volta che Weiss vede così da presso l'uomo della provvidenza, quello che diventerà nel volgere di un paio di anni il suo carnefice. Sa bene di chi si tratti. Da 14 anni questo romagnolo, dalla mascella volitiva, come si scherza sottovoce nei caffè, dalla gestualità scenografica più che solenne, ha in mano le sorti dell'Italia, nel frattempo diventata la casa dell'ungherese. È il politico che è piaciuto a Churchill, che ha affascinato Hitler, che ha cercato di far giocare un ruolo all'Italia nello scacchiere internazionale, intascandone in cambio un paese arretrato come l'Etiopia. Mussolini ha sicuramente fretta di chiudere questa cerimonia che vale unicamente per i giornali. È tutto molto veloce, sbrigativo. Eppure Weiss ha tempo senz'altro di guardarlo, di osservarne i modi, di misurarne le differenze rispetto a sé. Mussolini quasi non lo conosce. Beh, insomma, è una vecchia storia, il politico che nel momento che qualcuno vince si va ad affiancare, insomma, a farsi vedere sul carro del vincitore, e lo era Weiss, perché in quel periodo era un personaggio pubblico, noto e osannato dai tifosi e cercato dai giornalisti. Ma solo un anno dopo il trionfo in Europa del Bologna, è il 38, arriva il precipizio, perché arrivano le leggi razziali che Benito Mussolini a Trieste annuncia così in un discorso del 18 settembre. Che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio, e per il prestigio occorre una chiara, severa, coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Agosto c'era già stato un censimento per registrare gli ebrei stranieri residenti in Italia, quelli che poi sarebbero stati obbligati a lasciare il paese, e il provvedimento in origine disponeva l'allontanamento per gli ebrei stranieri entrati in Italia dal 33, ma lo stesso Mussolini anticipa la data al 19, e quella decisione segnò la fine per tanti, tra cui quello di Arpad Weiss e la sua famiglia. You think it feels when you're speeding and lonely? Come here, baby. How do you think it feels when all you can say is, if only, if only I had a little, if only I had some change. Come here, baby. If only, if only, only. How do you think it feels? And when do you think it stops? stiamo raccontando la storia di un grandissimo allenatore, uno dei primi grandi allenatori, quello che assieme a Vittorio Pozzo si contese il titolo di grande allenatore dell'Italia, quella a cavallo tra le due guerre, Arpad Weiss, allenatore però ebreo ungherese, vince due scudetti con l'Inter, poi va a Bologna e vince ancora e poi guida i rossoblù alla storica vittoria sul Chelsea, alla conquista del trofeo dell'esposizione, l'antica Champions League di oggi. Insomma, il mondo sta parlando di lui, siamo nel 1938, Weiss è all'apice della sua carriera e non sa che è vicino all'inizio della fine, perché nel 1938 in Italia esplode in tutta la sua crudeltà l'antisemitismo, gli ebrei cominciano a essere emarginati dalla società e fino a quell'anno le cose erano andate diversamente, come ci spiega Michele Sarfatti, direttore della fondazione del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea. Prima del 1938 l'antisemitismo non era molto diffuso nella società italiana. A partire dal 1938 si diffonde, c'è una grande capacità del fascismo come sistema di governo di rieducare, diciamo così, la popolazione. All'epoca c'erano gli antisemiti convinti, i non antisemiti e non fascisti, che erano una minoranza, poi c'era anche un vasto numero di persone che dicevano: io questa cosa non la capisco, ma se l'ha voluta lui un motivo deve esserci. Questa profonda delega che si instaura anche sotto le dittature. Eh sì, una delega che in qualche modo avrà conseguenze terribili, perché adesso nel 38 gli ebrei cominciano a non poter più studiare, insegnare, ricoprire cariche pubbliche, vengono vietate parecchie professioni e lo sport non fa eccezione. Dilettanti e professionisti non possono essere iscritti a società o a competizioni sportive e la famiglia Weiss comincia a avere paura, i bambini e ebrei non possono frequentare la scuola italiana e così Roberto, il figlio, non può essere iscritto alla terza elementare e a fine ottobre Arpad Weiss non è più l'allenatore del Bologna, la legge lo obbliga a lasciare l'Italia entro il marzo successivo, cioè quello del 1939, così uno degli allenatori più vincenti e più famosi di quegli anni è costretto alla fuga nell'indifferenza, nell'imbarazzo generale, insomma nessuno ovviamente ha il coraggio di schierarsi dalla sua parte, anche nell'ambiente del calcio che lo stava osannando fino a pochi momenti prima. Così il 10 gennaio 1939 è il giorno in cui valigie e scatoloni partono verso la Francia per un futuro che si preannuncia sempre più nero. Arpad Weiss, Elena, Roberto e Clara rimarranno a Parigi, ma solo qualche mese. Ho ricevuto la tua cartolina e dico che Parigi è una bellissima città. Io non mi trovo bene perché non so la lingua e non ho nessun compagno da giocare. Quando mi è arrivata la tua cartolina, ero tanto felice che tu ti sei ricordato di me. Ringrazio e ricambio la tua cartolina e ti mando tanti saluti alla tua mamma, al tuo babbo e ai tuoi fratelli. Il tuo indimenticabile amico Roberto. Questo scriveva un suo amico, il piccolo Roberto Weiss, insomma si sente la tenerezza, il disagio di quel momento, ci sono altre lettere tra la moglie di Arpad e alcune sue amiche, ma insomma la situazione è precipitata. Gentilissima signora, mi deve scusare se non mi sono fatta sentire, ma non era al momento buono. Ora mio marito è al posto, così siamo su di morale. Partiamo domani per l'Olanda, che comincerà la nostra nuova vita. Speriamo bene. Qualche errore ortografico, ma soprattutto disagio, sofferenza e la speranza per un futuro migliore. Si va ancora via e stavolta si va in Olanda. Weiss viene ingaggiato da una squadra minore, il Dordrecht. È una piccola società, i giocatori sono dilettanti, lavorano e studiano. È un ambiente completamente diverso da quello che Weiss aveva conosciuto in Italia. Noi ragazzi eravamo abituati a scaldarci in inverno correndo con la sciarpa addosso. La prima cosa che fece Weiss appena arrivato fu di farcela togliere. Era una persona umana, generosa, ma fermo quando si trattava della preparazione sul campo. Questo è il ricordo di Nico Zwan, che era uno dei giocatori del Dordrecht. In Olanda non è facile il lavoro, ma lui si butta, anima e corpo, allenamenti rigorosi, sa fare gruppo, insomma tira su una squadra di tutto rispetto. Anche Elena, la moglie, ce la mette tutta perché si occupa della casa e dei bambini, cerca di guardare avanti e di scacciare la paura delle notizie terribili che arrivano dal resto dell'Europa. Ma anche quella normalità dura poco, perché nel maggio del 40 la città di Dordrecht viene conquistata senza fatica dalla Germania nazista, il paese viene occupato. Un'ultima speranza per i Weiss potrebbe essere una nuova partenza, una fuga vera e propria. La speranza e l'idea quella buona sarebbe quella di andare in Sud America, è un'idea che avrebbe potuto significare la salvezza. Invece i Weiss rimangono perché sperano che alla fine qualcosa cambi in meglio, e purtroppo questo è un errore terribile perché significa la discesa nel baratro. La presenza si fa sentire subito per gli ebrei: discriminazioni, licenziamenti, espropriazioni, schedature, arresti, e adesso comunque non è più neanche possibile andare via, e nel 41 Weiss è costretto a lasciare la sua squadra, non può più allenare, può solo spiare i suoi ragazzi dalle fessure delle tribune dello stadio, non può neanche mettere in salvo la famiglia. Arpad Weiss è in trappola. Brother John saw visions of God, so they put him in chains for acting too hard. As the crowd shouted off with his head, the priest said, have mercy, let's burn him instead. Per la sua famiglia e per tutte le famiglie ebree, quelli sono mesi di disperazione. Il clima si fa pesante, pericoloso, cartelli che proibiscono l'ingresso agli ebrei nei vari locali, viene creato un mercato a parte dove andare a fare la spesa, è una lucida follia che circonda Arpad e la moglie e tutti gli ebrei. Ci sono i bambini, forse le cose possono ancora cambiare, infatti cambiano, ma in peggio. Perché nel 42 è il momento dei vestiti con la stella gialla, perché gli ebrei devono essere riconoscibili e vivono braccati e umiliati, e per loro c'è anche il coprifuoco, non possono utilizzare i mezzi pubblici e bisogna rimanere in casa. Qualcuno tenta di sopravvivere nascondendosi, come la famiglia di Anna Franca a Amsterdam, che viene denunciata poi da un delatore. I Weiss a Dordrecht sono conosciuti, sono in vista, non possono che aspettare la fine e vengono arrestati in casa loro. È il 2 agosto 1942. 15 gradini, né alti né bassi. Il calpestio è rumoroso, scandito. Devono essere più uomini, sicuramente hanno anfibi grossi e pesanti. 15 colpi sulla scalinata. Qualcuno ha acceso la luce nel palazzo di fronte, sorpreso dalla camionetta ferma in strada. Qualcun altro osserva, impaurito da dietro le tende. Un grande, irreale silenzio giace sulla piazzetta. C'è luce, ma il sole non scalda ancora. In quel momento in casa Weiss stanno certamente dormendo. In fin dei conti non c'è nessuna fretta di tirarsi su dal letto, visto che la scuola è preclusa ai ragazzi e che la sfilza di divieti lascia i genitori con nulla da fare per l'intera giornata. Sono le 7 di mattina del 2 agosto 1942. Questa volta non è stata la polizia olandese a muoversi. In questo caso è direttamente quella tedesca a bussare alla porta di Arpad. È la Gestapo. È il termine della corsa. La casa viene sigillata e i suoi abitanti portati via, gli averi della famiglia vengono confiscati dal Terzo Reich e le persone spariscono e non si sa bene dove siano portate. La prima tappa è il campo di concentramento olandese Westerbork, da cui ogni giorno partono i treni per la Polonia. Lì rimangono due mesi. Il 2 ottobre del 42 parte il convoglio con cui sono stati fatti salire i Weiss: Arpad, la moglie Elena, Roberto che ha 12 anni e Clara che ne ha 8. Il spiagge come quelli che i sopravvissuti hanno sempre raccontato, ammassati uno sull'altro, uomini, donne, bambini che perdono la dignità di esseri umani durante il tragitto, i lamenti, la paura, l'angoscia, la fame, manca l'aria, lo spazio. La destinazione è Auschwitz-Birkenau. Durante quei viaggi inumani si perdono le ultime forze, si arriva già piegati, annullati. Dopo due giorni di viaggio il treno dei Weiss arriva a Kosel, gli uomini vengono fatti scendere, le donne e i bambini rimangono sul treno. È l'ultima volta che Arpad vedrà la sua famiglia, perché Elena, Roberto e Clara vengono portati a Auschwitz e vengono uccisi subito nelle camere a gas che sembrano docce. Arpad Weiss invece è finito tra gli abili al lavoro, viene reclutato per produrre gli armamenti che servono alla Germania nazista, perché lui è stato un atleta, ha un corpo forte, nonostante i ritmi massacranti di lavoro, il freddo, il cibo scarso, le botte, le umiliazioni, il dolore per la perdita della sua famiglia, Arpad Weiss resiste quasi due anni ad Auschwitz. Muore il 31 gennaio 1944, viene dimenticato dal mondo del calcio che lo aveva portato in trionfo, viene dimenticato dai tifosi, dai dirigenti, dai presidenti, dai giornalisti, e di lui non si è più saputo niente per 60 anni, fino a che un giornalista con il pallino della storia ha deciso di riprendere in mano la vicenda. Gli è capitata in mano una sua foto e da lì è partito tutto. Questo giornalista è il direttore del Guerin Sportivo, Matteo Marani. Direttore Matteo, ci dici cosa ti ha affascinato? Cioè, com'è che hai scoperto la figura di Arpad Weiss? Ma l'ho scoperta in maniera molto casuale, l'ho scoperta attraverso una fotografia, l'ho raccontato più volte, io mi sono imbattuto in una sera mentre sfogliavo un libro sulla storia del Bologna nella foto di questo uomo, di cui io non sapevo sinceramente nulla, pur occupandomi di calcio da 20 anni, e mi sono fatto una domanda, cioè mi è venuta in mente una vecchia frase che avevo sentito da un decano del mio mestiere, sono un giornalista più grande di me, che mi aveva raccontato del fatto che il Bologna avesse avuto un allenatore ebreo negli anni 30. E allora mi sono chiesto se per caso quella fotografia, quell'uomo che era ritratto in quella fotografia, fosse quell'allenatore del Bologna degli anni 30 ebreo, ed era lui. Dalla mattina successiva ho deciso di cominciare a cercare tracce di lui. All'inizio non ho trovato nulla, niente di niente. Infatti, è stato difficile all'inizio. Ma all'inizio è stato difficile, è un po' come un collage, come un puzzle, nel senso che quando incominci a avere elementi, poi piano piano la storia la vedi. Io all'inizio non la vedevo perché ero concentrato su piccole cose, ma non avevo l'affresco generale, certo, di cosa era successo. Qual era il problema grosso? Il problema grosso era che lui lasciò l'Italia nel 1938 per le leggi razziali, ovviamente, e da allora nulla è più stato scritto su di lui, non c'era niente, certo. I giornali dell'epoca avevano un po' il silenzio su questa storia, per cui ho dovuto cercare negli archivi, finché l'idea chiave è stata quella del bambino di Roberto Weiss, che era il figlio di questo allenatore, e quello è stato l'elemento che ha sbloccato le ricerche un po'. È stato quello che mi ha portato dentro la loro storia, certo. Nel senso che attraverso lui ho pensato che questo bambino poteva aver fatto le scuole elementari, perché aveva l'età per le scuole elementari, esatto. Per cui ho cercato negli archivi dell'epoca in quale scuola poteva essere andato questo bambino. Io mi sono calato nel 1938, altrimenti non avrei capito molte cose, certo, di questa vicenda. Certo. E lì ho cercato i registri scolastici che a un certo punto, un po' miracolosamente, sono venuti fuori, li ho trovati in una scuola della periferia di Bologna, e dentro questi registri scolastici ho trovato i nomi dei compagni di classe. Certo. E ho dato la caccia a quei bambini di allora, finché non ho trovato il nonno di oggi, che era un compagno di classe del bambino di allora, che ha, nel momento in cui lo scrivevo, ha 75 anni, e questo signore aveva tenuto in casa le lettere che il suo figlio di infanzia gli aveva scritto, certo, in giro per l'Europa. Ne abbiamo parlato, certo. Ma che idea ti sei fatto tu di questo uomo, di Arpad Weiss, che tu l'hai definito un piccolo uomo finito dentro alla centrifuga della storia? Mi sono fatto idea di un uomo normale, di un uomo semplice, un uomo certamente di cultura. Lui era espressione della Mitteleuropa di quell'epoca, aveva fatto studi. Cioè, che allenatore lo paragoneresti? Non era un Mourinho, immagino, non era uno così spavaldo, no? No, non era certamente un Mourinho, forse più un Ancelotti, se dovessi fare un parallelo. Sì, sì, sì. Detto chiaramente Ancelotti è emiliano, l'altro era ungherese, però direi più Ancelotti. Un uomo molto semplice, con una famiglia bella, ma normale, nella sua normalità, viveva in un quartiere di Bologna, tra l'altro viveva a 100 metri da dove abito io, perché questa è la storia di un mio vicino di casa. Io quando ho scoperto la via in cui abitavano, attraverso il comune di Bologna, sono andato all'anagrafico storico, quello è stato il primo documento che ho avuto in mano, e quando ho visto la via, via Valeriani 39, mi sono cadute le braccia, perché è un posto dove io passo tutte le mattine da 30 anni. Insomma, è stata una grande commozione, infatti il mio libro inizia raccontando del suo ritorno dallo stadio a casa, da casa allo stadio, non è inventato, è quello che io ho fatto tutte le sere per mesi per cercare di medesimarmi in quest'uomo, con le paure e le angosce di un'Europa che stava cadendo nel buio, la paura di fronte all'orrore immane che stava arrivando, che loro certamente hanno sentito. Sì, poi lo hanno sentito, ma hanno avuto quello, come dire, sciagurato ottimismo che non li ha fatti partire per il Sud America. Guarda, questa è la domanda che mi sono fatto più volte di tutte: perché non sono fuggiti via? Allora, ti dico le due risposte che mi sono dato, senza presunzione che siano giuste. La prima, perché comunque è difficile spostare una famiglia. Sì. Dall'Europa all'altra parte del mondo, non è facile. La seconda, che forse è un po' più profonda, l'idea che mi sono costruito io su molti casi, cioè per gli ebrei l'olocausto, la Shoah, non è stata una cosa netta dall'oggi al domani, certo ci sono state leggi razziali che erano un segnale evidente di cosa stava succedendo, però è stato un restringimento degli spazi, e questo lo scrivo molto nel libro, giorno dopo giorno, c'è un divieto un giorno, il giorno dopo un altro divieto, e tu dici, forse dentro di te, posso fare anche fronte a questo divieto, posso rinunciare a questa cosa. Finché a un certo punto, come appunto scritto, non ti trovi chiuso in gabbia e da lì non esci più, non scappi più. Quando arrivano con il timbro, con la J.D. Juden sul passaporto, da lì non puoi più scappare. Certo. Matteo, sei stato preziosissimo e grazie per aver riportato alla luce questa storia e noi, diciamo, sulla tua scia l'abbiamo raccontata. E grazie a te, Enrico, per averla raccontata. Grazie. Le persone che hanno saputo dare un colpo d'ala sono quelle che noi raccontiamo anche quando, dopo aver volato in alto, la storia, una storia atroce e ingiusta, ti respinge verso il basso o addirittura verso la fine, come nel caso di Arpad Weiss. Se avete delle idee, delle storie, scrivete al falco e il gabbiano @radio24.it, oppure alle pagine Facebook del falco e il gabbiano, alla mia Twitter, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Francesca Del Rosso.